in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questa rassegna stampa dei quotidiani di oggi, a cominciare dal Sole 24 Ore. Scusate, dalla BCE 500 miliardi, nubi sulla ripresa, questo è il titolo di apertura. E si ricorda anche l'accordo europeo, il recovery può decollare, scrive il Sole 24 Ore. Al centro pagina, fotonotizia dedicata all'Ilva. Innanzitutto c'è la questione dell'intesa Arcelor Invitalia, Taranto torna allo stato azionista, ma poi c'è anche l'assoluzione di Fabio Riva a Milano. E se ne scrive dettagliatamente nelle pagine interne. La questione della soluzione di Riva la ritroveremo su diversi quotidiani. Poi vi voglio segnalare però un altro tema dalla prima del Sole 24 Ore, che è quello relativo alla scuola, perché a settembre 27.000 insegnanti in meno, così scrive il Sole. E andiamo a leggere nelle pagine interne, questo è un tema che riguarda moltissime famiglie da una parte e dall'altra, sia quelle degli insegnanti sia quelle degli alunni. Nessuna fuga dalla scuola per l'effetto combinato paura del Covid-19, opportunità derivante da quota 100, ma un turnover piuttosto sostenuto che, complice l'ennesimo stop ai concorsi legato alla pandemia, rischia di far partire il nuovo anno scolastico con una vera e propria esplosione di cattedre vuote, soprattutto al nord. Ne scrivono Eugenio Bruno e Claudio Tucci, non l'avevo ancora detto. A settembre 2021, secondo i primi dati del Ministero dell'Istruzione sulle domande di pensionamento chiuse lo scorso 7 dicembre, usciranno 27.592 docenti, ammesso che tutte le richieste vengano accolte, di cui quasi 16.000 con l'anticipo targato quota 100, a cui si sommano altre 7.000 e rotte unità di personale tecnico-amministrativo, educatori e insegnanti di religione, per un totale di oltre 35.000 unità. All'appello mancano i dirigenti scolastici, i cui termini per le domande di pensione scadono più avanti il 28 di febbraio. Ogni anno indicativamente escono più o meno tra i 4 e i 500 presidi. Numeri che rendono le uscite preventivate per il prossimo anno scolastico un po' più alte di circa 500 unità rispetto al 2020-21, quando, fonte sempre Ministero dell'Istruzione, i pensionamenti dei docenti sono stati 34.504, di cui 26.000 docenti. In due anni, pertanto, sono usciti quasi 54.000 professori, di cui oltre 29.000 con quota 100. Come spesso accade per il mondo dell'istruzione, il quadro territoriale è ovviamente diverso. Nelle sei regioni, vado un po' più veloce, del nord, andranno in pensione complessivamente 12.209 insegnanti, il 44,25% del totale, con un'ipoteca molto pesante in termini di cattedre scoperte, posti vacanti, supplenti da nominare, che è possibile intravedere sin d'ora in vista del prossimo anno scolastico. Ecco, si vede fin d'ora, e fin d'ora forse si dovrebbe intervenire, non forse, certamente si dovrebbe intervenire. Su Sole 24 Ore molto spazio ovviamente a tutto ciò che è stato deciso a Bruxelles. Vi voglio leggere così un passaggio di quel che riguarda specificamente le intese fatte sull'ambiente a Bruxelles, dove si gioca la leadership globale, scrive Sole 24 Ore in un articolo firmato da Gianluca Di Don Francesco a un anno dal Green Deal. L'Unione Europea prova ad alzare l'asticella sulle emissioni di anidride carbonica un anno dalla presentazione dell'ambizioso Green Deal di Ursula von der Leyen. La Commissione ha chiesto al Consiglio, che si chiude oggi, il via libera sulla propria proposta di portare almeno al 55% entro il 2030 il taglio della CO2 prodotta rispetto ai livelli del 1990. Il target attuale è del 40%, la sua revisione è considerata fondamentale per arrivare all'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Alla vigilia non c'erano obiezioni insuperabili da parte dei 27. A ottobre l'Europarlamento aveva anzi indicato un obiettivo ancora più alto, il 60%. Secondo alcune stime, per centrare il target proposto dalla Commissione sarebbero tuttavia necessari 350 miliardi di euro all'anno di investimenti nella produzione di energia e infrastrutture. Le risorse andranno almeno in parte cercate nel Recovery Fund e in generale dipendono dall'approvazione del budget europeo. E la proposta della Commissione comunque differisce, questo lo aggiungo io, dalla proposta del Parlamento, abbiamo detto 55% secondo la Commissione, 60% secondo il Parlamento, ma il Parlamento aggiungeva che il 60% doveva essere al netto di quanto le foreste possano assorbire, quindi un 60% proprio sulle emissioni che vengono fatte senza tener conto dello stoccaggio, diciamo, naturale. E la proposta della Commissione è ovviamente evidentemente inferiore, di diversa natura anche. E andiamo a questo punto alla stampa. La stampa: speranza, vaccinazioni al via il 6 di gennaio. Questo è il titolo che riguarda tutto ciò che sta attorno al mondo dei vaccini, decisamente in grande ambascia in questo periodo. Vi leggo: si parte entro la Befana con il vaccino di AstraZeneca. Ad assicurarlo alla stampa è il ministro della salute Roberto Speranza, ma il farmaco prodotto da Oxford è in ritardo. Slittano di 2 settimane i dati all'Agenzia Europea del Farmaco. Ma i problemi non finiscono qui. L'agenzia americana FDA ha richiesto un supplemento di indagine per capire come mai 2.800 volontari sui 30.000 arruolati per la sperimentazione siano risultati protetti al 90% dal virus con mezza dose di vaccino, anziché al 62%, come la maggior parte che la dose l'ha avuta piena. E quindi c'è da indagare, perché farne due a questo punto. Non sono le uniche questioni legate ai vaccini che trovate approfondite sui quotidiani di oggi. La stampa porta però su un'altra questione il suo titolo, diciamo, più in evidenza, ed è una questione che riguarda il governo. Renzi sfida Conte, PD spiazzato. Orlando risponde: sbagliato replicare il papete in salsa natalizia. Nuovo appello di Mattarella alla coesione. E c'è appunto questa intervista a Matteo Renzi che leggiamo, realizzata da Daniel Verdù. Inizia così, ve lo leggo testuale, mi ha un po' sorpreso. Allora, Matteo Renzi, aperta parentesi, Firenze, 45 anni, chiusa parentesi. Sembra di tornare ai tempi di TV Sorrisi e Canzoni, manca un po' il segno zodiacale. Comunque, a parte l'inizio, l'intervista è molto dettagliata e approfondita. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, leader di Italia Viva, un anno e mezzo fa, in piena estate, ha guidato uno storico assalto politico che ha destituito Matteo Salvini dall'esecutivo e ha fatto nascere un nuovo governo. Il fiorentino, il migliore in questo tipo di partite a scacchi parlamentari, accettò che Giuseppe Conte restasse alla guida del nuovo esecutivo. Oggi però minaccia di usare la sua forza parlamentare, 30 deputati, 18 senatori, per farlo cadere se il Presidente del Consiglio non accetterà di cambiare radicalmente la struttura che ha progettato per distribuire i 209 miliardi di euro di fondi europei che l'Italia riceverà. La situazione è critica e arriva nel momento peggiore, ma Renzi questa volta è disposto ad andare fino in fondo. Se cade il governo, come afferma in una intervista telefonica a Il País, non ci sarebbero difficoltà a formare un altro esecutivo. Qualche risposta data da Renzi a questa intervista di Verdù. Mercoledì in Senato lei ha avvertito il Premier che farà cadere il governo se non revocherà la sua decisione di affidare la gestione dei fondi di recupero europei a una task force. Sarà ascoltato? E dice lui: penso che tornerà sui suoi passi. È stato nominato Presidente del Consiglio dopo che un anno e mezzo fa in Parlamento abbiamo effettuato una manovra contro Salvini, ed è stata una bella operazione, perché tra l'altro il Movimento 5 Stelle, che era contro l'Europa, oggi è europeista e cerca di entrare nel gruppo di Emmanuel Macron, Renew Europe. Questo è un capolavoro tattico. Conte ha lavorato per andare avanti durante la pandemia e in alcune cose ha fatto meglio che in altre, ma non si può accettare che in nome dell'emergenza, a 10 mesi dal suo insorgere, si arroghi tutti i poteri dello Stato per disporre di quei 200 miliardi. Non abbiamo mandato via Salvini per questo. Insomma, a El País Matteo Renzi parla fuori dai denti, come si suol dire. E sulla questione, prima di dare la linea al traffico, vi porto sulle pagine di Quotidiano Nazionale, dove c'è un'intervista al costituzionalista Sabino Cassese. La task force è un esproprio della politica, dice lui. Quanto tempo sarà necessario per mettere in piedi una piramide organizzativa così complessa? Risponde alle domande di Raffaele Marmo. Questa non susciterà reazioni della pubblica amministrazione, degli organi ordinari dello Stato, i quali non assicureranno la loro collaborazione? E poi, altra osservazione critica, il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica del governo e il governo è organo dello Stato, ma può il Presidente del Consiglio dirigere qualcosa che finirà per essere fuori dallo Stato? Altra domanda, una soluzione di questo tipo non è un esproprio delle funzioni dei ministri e dunque della politica? Certamente, risponde Cassese, molte funzioni sono portate fuori dalla struttura statale, ma da questo punto di vista si è mancato di coraggio se si voleva andare fino in fondo, ma rispettando le tradizioni del nostro pluralismo amministrativo bisognava fare una scelta come quella di De Gasperi, che nel 1950 per lo sviluppo del Mezzogiorno adottò la formula della Cassa per il Mezzogiorno. Anche quella aveva il compito di svolgere funzioni straordinarie. E dice ancora Cassese più avanti, c'è un'indubbia tendenza di Palazzo Chigi all'accentramento, basta vedere come è stata gestita la fase preparatoria della redazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Risoluzione. Questo atteggiamento è motivato da profonda sfiducia rispetto all'amministrazione ordinaria, rispetto alla propria capacità di governarla, ma anche da sfiducia nei confronti delle forze politiche. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo la viabilità. In primo piano. E proseguiamo sulle pagine del giornale. Pacco di Natale, già finiti i soldi, questo è il titolo di apertura, fregature in arrivo. Sono agli sgoccioli i fondi destinati al cashback. Tante richieste, pochi soldi a disposizione, il cashback di Stato, o meglio l'anticipazione natalizia dell'incentivo all'uso della moneta elettronica fortemente voluto dal Premier Giuseppe Conte, potrebbe riservare brutte sorprese a chi ha già messo nel suo bilancio personale lo sconto da 150 euro promesso dal governo. I fondi sono già finiti o quasi. Se ne parla poi dettagliatamente nelle pagine interne. Nella prima pagina del giornale si ricorda l'assoluzione di Calogero Mannino, l'ex ministro, dopo 30 anni di gogna, così scrive il giornale. La Cassazione infatti ha assolto l'ex ministro, che era accusato di avere stimolato la trattativa Stato-mafia. Un caso di mitomania giudiziaria, lo definisce il giornale. Si ricorda poi ovviamente su tutti i quotidiani italiani Paolo Rossi, e in particolare ne scrive un po' a sorpresa sul giornale Fausto Biloslavo. Conosciamo tutti Biloslavo per essere un cronista di guerra. Infatti lui racconta di quando Paolo Rossi, dice, mi salvò dai tagliagole talebani. Conosci Paolo Rossi? La domanda dei tagliagole islamici che mi circondano scrutando la succulenta preda è sorprendente. Nel 1998, dopo i missili lanciati da Bill Clinton sulle basi di Osama Bin Laden in Afghanistan, non c'è tanto da scherzare a girare tra i talebani, che da un paio d'anni hanno conquistato quasi tutto il paese a colpi di Corano e moschetto. E in quella situazione, Biloslavo ricorda, lui si salvò raccontando del 1982 e delle gesta di Pablito. Corriere della Sera, Conte mossa anticrisi, confronto con le forze politiche, Di Maio non deve subire ma gestire. E Renzi minaccia di ritirare il sostegno al governo e la frenata di Zingaretti. Ne abbiamo parlato con l'intervista a Matteo Renzi poco fa. Sulla prima del Corriere della Sera si torna con profondità su tutta la vicenda legata a Giulio Regeni. I PM dicono la prof di Giulio Regeni non ha aiutato le indagini, la professoressa di Cambridge. La tutor di Giulio Regeni a Cambridge non ha avuto la volontà di contribuire alle indagini. Lo sostengono i PM di Roma, che hanno chiuso le indagini sull'omicidio del ricercatore. Il sindacalista egiziano fu invece l'esca dei servizi, sindacalista che Giulio Regeni incontrò nei suoi vari incontri, nelle sue varie indagini e ricerche in Egitto. Centropagina, una fotografia di Ernesto Pellegrini, Compie 80 anni, nella sua Milano, imprenditore, ex presidente dell'Inter, filantropo, ottimista da sempre, scrive il Corriere della Sera, sì, credo che insieme ce la faremo a uscire da questa tempesta. Su Repubblica, apertura prove di Conte Terre, il Premier vuole subito la verifica nella maggioranza, apre al rimpasto ma lo devono chiedere i partiti, l'ipotesi di un ministero per Renzi, battaglia sui servizi segreti, Mattarella, servono unità e serietà. C'è poi un'intervista al Presidente della Camera, no ai ricatti, se cade il governo si va al voto, così dice Fico alla Repubblica. E poi la svolta UE sul clima, le emissioni giù del 55% entro il 2030. Non abbiamo tempo, ma vi rimando, perché è interessante, è una intervista di Rosalba Castelletti alla cestista Leuchanka, bielorussa, dal basket NBA alle celle bielorusse per avere detto basta al regime. Quindi l'impegno di Elena Leuchanka, 37enne, cestista bielorussa, ex giocatrice appunto, come dicevamo, della femminile NBA negli Stati Uniti. In alto si vede, in alto nella fotografia, è in corteo contro il regime di Lukashenko, il che le è crestato il carcere. Andiamo su Avvenire, l'Italia più in giallo, l'indice di contagio RT cala ovunque a meno di 1, rischio da moderato a basso, ma altri 761 morti. Sulla prima di Avvenire si parla e si lancia un allarme per gli ecoreati che sono in crescita, per Legambiente 4 illeciti ogni ora, i rifiuti sequestrati come una colonna di 95.000 tir. E poi un richiamo, un articolo che poi viene arriva a pagina 3, scritto da Lamberto Maffei, un medico: la tecnologia fa invecchiare più in fretta. E il tema è questo: la tecnologia è incalzante, lo sarà sempre di più in futuro, l'offerta del mercato per i lavori più prestigiosi e remunerati sarà nel campo della tecnologia più avanzata e a rispondere saranno i giovani, e si può quindi dire che alla base del processo di rivoluzione sociale già in corso non c'è solo la rivoluzione tecnologica ma anche un'intrinseca ragione biologica. A mio parere, con molta probabilità le strategie di reclutamento nel lavoro saranno diverse da quelle attuali e non implicheranno posti a tempo indeterminato, ma lavori a contratto ben remunerati in funzione dei risultati ottenuti, un po' come nel mondo del calcio. E quindi, dopo una certa età, dopo gli anta, si sarà tutti fuori in quanto incapaci di aggiornarsi o di stare dietro alle tecnologie. Su Libero, tema di apertura, fanno debiti e li festeggiano, politici accattoni felici di accumulare deficit. Poi la storia orribile di Ilva e Riva, come uccidere senza un perché una grande fabbrica e una grande famiglia. Filippo Facci è l'autore dell'articolo. Fabio Riva è stato assolto per la seconda volta dall'accusa di bancarotta legata all'Ilva. E diceva appunto Facci, scrive: la storia dell'Ilva non è chiaro neppure che storia dovremmo raccontare, visto che le storie sono tante, incrociate tra loro, tutte importanti, tutte catastrofiche, tutte rimosse, tutte incredibili. Una è la storia di Emilio Riva, morto nel 2014 nella maniera più infame, dopo essere stato considerato, e tuttora lo è, il pioniere della siderurgia italiana del dopoguerra assieme al fratello Adriano, creatori di soluzioni innovative nella produzione dell'acciaio tra gli industriali. Ultimo titolo che vi voglio dare è quello del Fatto Quotidiano. Conte sfida Renzi che perde pezzi. Papete bis vuole stanare il guastatore come Salvini. Le carte in tavola, ora il Premier convoca gli alleati, voglio trasparenza, dice, fughe in arrivo da Italia Viva, ora intendo finalmente, in arrivo da Italia Viva in rotta. E questo è il tema di apertura del Fatto Quotidiano, sul quale ci dobbiamo necessariamente fermare perché c'è GR24. Ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.